Cominciamo. Gli amici conoscenti del Folletto a Pettegrasso registrano, video registrano solamente. Solo suono, sì. Solo suono. Poi magari quindi riusciamo a avere anche copia registrata della serata. Buonasera a tutti, ciao a tutti, tutte, grazie di essere venuti, qui. Questa serata è la serata conclusiva di un piccolo percorso che nella nostra festa di quest'anno, per festeggiare l'inizio della Cascina Contina ormai 13 anni fa, abbiamo dedicato al tema della sicurezza. La sicurezza o è di tutti o non è di nessuno. Ci siamo sentiti un po' chiamati, necessitati, obbligati a dire e fare qualcosa in questo momento, per dire e fare qualcosa di diverso, per continuare a fare qualcosa di diverso e per dire che stiamo facendo qualcosa di diverso e vogliamo continuare a fare qualcosa di diverso riguardo alle problematiche della sicurezza, riguardo a questa marea montante, merda montante, volutamente studiata, no? E pianificata dalle gran casse dei poteri forti, dalle gran casse dei giornali, delle televisioni, con la caccia al lavavetri, la caccia al rom, la caccia agli anelli deboli che le nostre catene forti continuamente fanno spezzare, di cui provocano la rottura. E come comunità di accoglienza, che è un po' conficcata e vuole continuare a essere conficcata in questo territorio, un po' come una spina in un fianco, più o meno tollerata o più o meno ignorata, perché ormai la tecnica è quella, non è tanto quella di muoverti contro, ma quella di ignorarti, è quella del muro di gomma, tanto le decisioni sono prese altrove, sul territorio, e nessuno ha preteso di entrare nei posti in cui si prendono le decisioni, ma di costruire, cercare di contribuire a costruire un po' cultura, e cultura diversa su questo territorio. Ci siamo sentiti la responsabilità di creare uno spazio, degli spazi piccoli per quanto siamo capaci noi e quanto siamo capaci noi di arrivare anche a incrociare le storie delle altre persone qui sul territorio e nelle reti di cui facciamo parte, per provare a continuare a dire qualcosa di diverso riguardo alla sicurezza. Che cioè la deriva securitaria che stiamo assistendo, di cui siamo anche intrisi, culturalmente intrisi, non ci fa schifo, no? Che secondo noi c'è un modo diverso e cerchiamo di dimostrarlo in tanti qui, anche dalle tante storie che veniamo, non solamente qui alla Contina, sia chiaro, no? Con le pratiche quotidiane che mettiamo in atto, no? Per accogliere, per incontrare, per incrociare le storie, non per escludere, no? Per riconoscere le responsabilità, dare un nome alle responsabilità, per non frantumare sempre gli anelli deboli della catena, ma cercare di creare un po' di sostegno, di riannodare i fili di una possibile convivenza tra le diversità, tra le storie molto diverse, le culture molto diverse con cui abbiamo a che fare. Ecco, l'incontro di questa sera è a conclusione di questo piccolo percorso che abbiamo cercato di offrire con il concerto dell'Otto del Canto Sociale, col film il mercoledì scorso, Il Vento fa il suo giro. Ci fa piacere che questa sera ci sia un po' di gente, più delle altre volte. Siamo contenti che Renato abbia accettato di venire un po' a stare con noi, a condividere un po' la sua esperienza, i suoi ragionamenti, i percorsi che sta facendo, no? Che riguardano sempre più queste storie, che incrociano sempre più queste storie, e vogliamo un po' ascoltare e dialogare con lui proprio su questo tema, sulla sicurezza, sul fatto che possiamo interpretare in maniera diversa, in maniera forse più vera, no? più umana, il fatto che o è per tutti la sicurezza e quindi tutti siamo più sicuri o non è per nessuno, e secondo noi è lavorando per ricostruire ognuno nel suo piccolo spazio, dal suo piccolo punto di vista o grande punto di vista, quel legame sociale che si è fratturato, che è stato frantumato in questi mesi, in questi anni, in questi decenni, che noi possiamo costruire delle possibilità veramente più sicure per tutti. Qui siamo di fronte alla frantumazione sociale, alla frantumazione sociale che taglia le nostre case, che taglia i nostri paesi, le nostre città, ma che spesso taglia anche all'interno delle nostre case, ci taglia, ci attraversa. Non riusciamo più a sentirci comunità, non riusciamo più a viverci come comunità, a sperimentarci come comunità. Ognuno è sempre più solo, triturato dagli ingranaggi del denaro, della voglia di vincere, di primeggiare, della competizione che ci hanno destinato come unica prospettiva. Secondo noi su questo un po' si gioca anche la prospettiva un po' di una nostra civiltà che possa continuare a essere una civiltà dello stare assieme, una civiltà dell'accoglienza e non sia solamente una civiltà una inciviltà, uno scontro tra barbarie del tutti contro tutti, ognuno per sé e vinca il migliore. Lasciamo parlare Renato e poi dialoghiamo con lui. Grazie. Beh, hai usato e hai introdotto questa serata mettendo al centro alcune parole: legame, sicurezza, inclusione, esclusione, controllo sociale. Sono tutte parole che in qualche misura si tengono insieme, ma che è molto molto difficile cogliere oggi se non le collochiamo in un contesto che non è più quello dentro le quali queste parole si sono formate. E oggi abbiamo proprio un problema di un grosso passaggio che ridefinisce il significato stesso delle parole. E vorrei allora avvicinarmi ai temi che tu hai proposto prima e che mi avete proposto per questo incontro, partendo un po' da lontano, per così dire, ma da lontano e da molto vicino, perché il lontano e il vicino sono due poli che oggi nel mondo che si fa planetario, no? Diciamo, ci mettono di fronte a una grande difficoltà. Vi faccio un esempio pratico per farvi capire di che cosa sto parlando. Ci sono oggi nel mondo aziende che tutti conoscete, per esempio Carrefour, Auchan, IKEA o Walmart, no? Le cui misure sono talmente enormi rispetto alle misure a cui noi siamo abituati che cogliere esattamente questa loro enormità, no? È indispensabile per poter fare tutti gli altri passi di avvicinamento alle parole di cui noi ci stiamo servendo. Walmart, per esempio, è un'azienda che in un anno, 2006, ha avuto nei suoi negozi 7 miliardi e 300 milioni di consumatori. Quindi una sola azienda nel mondo ha avuto nei suoi negozi più della popolazione mondiale. Ecco, questo dato vi deve dire delle cose. Per esempio, il consiglio di amministrazione, o meglio, il consiglio di approvvigionamento della Walmart, quando pensa di fornire ai suoi negozi di un dentifricio, pensa nella misura di molti miliardi di pezzi. Quando pensa di approvvigionare di banane i suoi negozi, pensa nell'ordine di molti miliardi di banane. Ora, per poter fare questa operazione ha bisogno di intervenire sul mondo, intervenirci in una maniera consistente. Per esempio, per spostare questi enormi quantitativi di banane deve servirsi di enormi navi e di spazi di transito che sono diventati obsoleti. Il canale di Panama, per esempio, il canale di Panama che per tantissimi anni, no, ha consentito tutto il traffico di merci del mondo, cioè per quel che riguardava la zona degli oceani interessati, oggi è assolutamente troppo piccolo per Walmart, che ne ha fatto costruire una via parallela ancora più grossa, un secondo canale di Panama, che se leggete, non so, il Financial Times per esempio, ormai chiama, no, consuetudinariamente il canale Walmart, cioè un'azienda del mondo per dotare i suoi negozi delle cose necessarie cambia la geografia politica del mondo, una sola azienda. Prendiamone una che c'è più vicino, Ikea, non ha 7 miliardi di persone ma ne ha 600 milioni, quindi cioè, un'azienda decide che farà un lettino da vendere e quando pensa di fare quel lettino lo progetta nella misura, no, di non centinaia di migliaia di pezzi, ma di milioni e milioni di pezzi. Voi avete presente che 600 milioni di clienti sono il doppio, triplo della popolazione europea stretta, no? Quindi sono misure immense. Perché vi introduco con questo discorso di misure? Perché noi oggi, quando ci muoviamo, nel mondo del consumo, ci muoviamo dentro queste dimensioni. Carrefour è la seconda azienda del mondo dopo Walmart per dimensioni. Sono aziende che sono presenti in Africa, in Asia, e che intervengono a modificare completamente sia il terreno della produzione, sia il terreno dei transiti, dei trasporti, sia il terreno dei consumi. Quel che mi interessa mettere in evidenza rispetto al ragionamento che noi dobbiamo fare stasera è che queste enormi misure sono misure che producono due tipi di discriminazioni, subito, d'amblè, all'inizio. Una prima discriminazione è quindi un primo tipo di esclusione sociale, no? È quello che riguarda l'80% della popolazione mondiale. Tutto ciò che io vi ho detto finora vale per il 20% della popolazione mondiale. Vale a dire, per noi, qui in Europa, per il Nord America, il Canada, cioè piccole zone del mondo, il 20% della popolazione mondiale che si appropria dell'80% delle risorse di tutto il mondo. E l'80% della popolazione mondiale resta escluso da queste risorse e se ne dovrà spartire il 20%. Queste grandi aziende allora, cioè, disegnano un modello di sviluppo. Un modello di sviluppo che nasce da un'idea apertamente discriminatoria sul pianeta. L'80% della popolazione mondiale deve stare fuori da tutto ciò. Il 20% potrà forse stare dentro, ma noi che facciamo parte di questo 20% di enormemente privilegiati, ci troviamo a dover verificare nella vita quotidiana, no, un sistema, di discriminazioni al nostro interno. È vero che questo 20% della popolazione gode, mediamente dello stesso livello di privilegi? No, molti dentro questo tipo, già di minoranza planetaria privilegiata, no, hanno una vita difficile, precaria, assolutamente instabile, no? Sono inseriti in un'economia paradossale, cioè hanno la macchina, il frigorifero, i mobili, casomai la casa, ma non hanno i soldi per pagarla. Se noi fossimo, in una, nella possibilità di fare una piccola magia e di dire, ragazzi, stasera a mezzanotte, quando scocca la mezzanotte, tutti devono rientrare della loro esposizione, questo sistema crollerebbe dopo domani, il giorno dopo. Nessuno potrebbe rientrare. A tante rate da pagare, di questo, di quello, di quello. È come dire, esposto in un'economia virtuale. Che significa, in parole, diciamo, che ci riguardano rispetto all'inclusione e all'esclusione, significa che è impegnato il lavoro di domani, di dopodomani, dei prossimi anni, per pagare ciò che già lui sta godendo. Vale a dire, gode di privilegi, ma dovrà lavorare per molti anni per poterli pagare. Dal punto di vista del controllo, questo significa che si è creato da solo una piccola prigione. Si è creata una piccola prigione che lo obbligherà ad accettare le condizioni indispensabili per stare lì dentro. Questo è il sistema, diciamo così, delle due discriminazioni fondamentali, intanto, da cui partire per ragionare sull'esclusione e l'inclusione. La domanda che allora a questo punto dobbiamo farci è questa: ma queste discriminazioni sono un fatto, come dire, naturale, cioè avvengono, che ci possiamo fare, sono naturalizzate nella storia delle società, o viceversa sono delle imprese? Ci sono degli imprenditori sociali, morali ed economici delle discriminazioni. Le discriminazioni, in altri termini, sono solo subite da qualcuno o sono anche, come dire, gestite da qualcun altro? Servono a qualcuno per poter, diciamo, realizzare una serie di scopi che possono essere o di controllo sociale, come il tema della sera, o anche di controllo economico, cioè di profitto. Questa è la domanda importante per leggere le discriminazioni. È molto importante farci questo tipo di domanda, perché da questo tipo di domanda ne discendono delle implicazioni molto, molto forti, come potete capire. Se noi siamo di fronte a degli imprenditori, allora la lettura del processo che produce esclusione è di un tipo. Vi faccio un'altra analogia. Se questa società, per vendere un CD, per esempio, deve utilizzare molta plastica, una scatola di cartone, del polistirolo e del cellophane, vale a dire molto imballaggio, no? Insieme al cellophane, insieme al CD, venderà anche molti rifiuti. Quindi noi abbiamo, come dire, una società che produce esponenzialmente dei rifiuti. Ma i rifiuti, vale a dire cose che per noi non hanno alcun valore, tant'è che preso il CD buttiamo via, no? I rifiuti sono solo rifiuti o servono a far profitto alle persone che ci vendono il CD? Questa è l'analogia che vi voglio, diciamo, suggerire, che là dove si produce esclusione, c'è un rifiuto, e detto fuori dai denti, gli esclusi socialmente sono dei rifiuti dell'umanità, sono, diciamo così, una parte di scarto, vite di scarto, come le chiama Bauman, vite che servono solo a certi scopi per alcuni imprenditori, no? Bene, chi produce questo processo ha interesse a produrre il rifiuto o ha interesse a produrre un profitto e un controllo? Questa è la mia domanda. Per rispondere a questa domanda utilizzerò due tipi di processi sociali, vi mostrerò due tipi di processi sociali che sono sotto i nostri occhi e che ci consentono di entrare dentro la domanda. Il primo di questi analizzatori, diciamo così, è il popolo dei Rom. Il secondo di questi analizzatori è il popolo o i popoli migranti. Prendiamo il popolo dei Rom. Noi stiamo lavorando da tanti anni con i Rom, abbiamo pubblicato anche appena un libro che si intitola Che Iace Lem, scritto da una ragazza che lavora con delle ragazze Rom. Questo libro nasce in uno dei quattro campi Rom di Roma, quello di Montemario, uno dei quattro campi che avrete letto sui giornali recentemente, perché sono stati oggetto di una forte resistenza rispetto alle politiche di deportazione che il sindaco di Roma voleva a tutti i costi attuare per rendere questa città più pulita, per i turisti, no? Più sicura, per usare questa parola sulla quale poi ci interrogheremo molto, no? Per, rispetto ai cittadini, e quindi gente che viveva da 30-40 anni, cioè dentro questo campo, no? Doveva essere deportata, presa e buttata fuori da questi luoghi. Bene. Questo campo, diciamo nomadi, questo campo per Rom, che non ha niente a che vedere con rumeni, Rom e rumeni sono due nozioni che non c'entrano niente una con l'altra, no? Questo campo sta in una via che paradossalmente si chiama via Cesare Lombroso. Cesare Lombroso è una figura, diciamo, curiosa nel panorama culturale italiano. È uno psichiatra positivista che a metà dell'Ottocento, quando si formava l'Unità d'Italia, no, ha avuto una, diciamo, importanza considerevole per questo Stato e per la cultura italiana dei decenni successivi fino a oggi. Il suo valore è stato quello di, per esempio, proporre al nascente Stato italiano gli ospedali psichiatrico giudiziali. La sua idea era che figure come Lazzaretti, per esempio, che era un riformatore cristiano, diciamo così, assolutamente pacifico, diciamo così, e che voleva semplicemente socializzare delle terre sulle quali i contadini del Monte Amiata da sempre vivevano, da sempre lavoravano, ecco, questo riformatore da Cesare Lombroso è stato, come dire, diciamo, dipinto e poi definito, poi psichiatrizzato ed etichettato come un criminale sociale, una figura che andava assolutamente chiusa da qualche parte perché socialmente pericolosa e soprattutto perché metteva a rischio la sicurezza dei cittadini dell'epoca. Ora, non si sapeva bene nel 1861 dove chiudere Lazzaretti, perché lo stesso Lombroso era molto incerto, diceva, beh, dove lo chiudiamo? In un carcere. A dire il vero, diciamo così, è un carrettiere che sì, fa queste cose strane, ma non è propriamente un ladro, insomma, uno stupratore, uno che uccide, dove cavolo lo mettiamo in un carcere? Non ci sono le leggi per metterlo in un carcere. Allora, dice, lo mettiamo in un manicomio. No, ma neanche il manicomio, lì ci vuole una certa nevrosi, psicosi, una certa, diciamo, particolarità di comportamenti. Tutto sommato, questo era uno che convocava dei contadini, discutevano insieme e parlavano di autogestione delle terre. Era un po' difficile, diciamo, fissarlo in un'etichetta psichiatrica. Allora Lombroso ebbe il colpo di genio di dire, beh, facciamo una nuova istituzione, la chiamiamo manicomio giudiziario e ci mettiamo quelle figure che a rigore non sono proprio matte e a rigore non sono proprio criminali, che tuttavia rompono un po' le scatole dentro la società. Quindi ce ne sbarazziamo. Di lì nasce questa istituzione odiosa che sono gli ospedali psichiatrico giudiziari, che purtroppo in questo paese, nonostante le riforme carcerarie e nonostante le riforme del manicomio, la chiusura anche dei manicomi, sono rimaste intatte, belle forti. Noi ci interessiamo molto di questa istituzione perché, come dire, è un fatto di orrore, cioè vivere in una società che ospiti un'istituzione di questo genere fa orrore, fa semplicemente orrore. Non dico altro, cioè non credo che neanche occorra scendere sul terreno della politica per affrontare un'istituzione di questo genere. E tuttavia un'istituzione di questo genere è ancora operante grazie al pensiero di Cesare Lombroso. Ma a me interessava di chiamare Lombroso per questa analogia curiosa tra Rom, no? Il campo dei Rom e la via dedicata a lui. Perché Lombroso è anche una persona che rispetto ai Rom ebbe la straordinaria e geniale idea di indicare nei Rom, no? Un popolo all'interno del quale forse prima o poi sarebbe stato possibile scoprire un gene criminale. Un popolo criminale geneticamente. Ecco perché dei Rom bisognava sbarazzarsi, dopo che vivevano già da 500 e 600 anni in questo paese. Sbarazzarsene perché erano geneticamente criminali. L'idea ha fatto molta strada, credetemi, cioè da quando lui l'ha detta a quando in Italia si è cominciato ad applicarla, sono passati una cinquantina d'anni, ma come dire, il fascismo non si è lasciato perdere l'occasione, tant'è che sono stati costruiti tra i suoi 200 campi di concentramento, di cui nessuno parla per carità di patria in questo paese, due campi di concentramento specifici solo per Rom e di Rom in Abruzzo e in Molise. E i Rom che sono stati rinchiusi sono poi, col tempo, tra il 39 e il 45, stati tutti trasferiti nei campi maggiori, quelli tedeschi, dove sono stati mandati nei forni crematori. 500.000 morti. 500.000 morti sono una bella misura, cioè no? Un genocidio vero e proprio per un popolo piccolino come quello dei Rom. E tuttavia un popolo, diciamo così, non è l'orrore non sta nel numero. L'orrore sta nel dispositivo culturale che ha generato questo eccidio. Vale a dire in questo pensiero che vi siano alcuni tra noi, tra gli umani, che sono geneticamente inferiori, che sono addirittura geneticamente criminali.